Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Batte Dybala nell'area di rigore, la deviazione e il vantaggio del Palermo dopo 23 minuti, probabilmente un autogol. Eh sì, è proprio Zapata. Eh sì. Palermo che corre ed è frizzante in velocità, Dybala va via secco a Zapata che cade, Dybala! 2-0 per il Palermo in due minuti, prima l'autogol di Zapata, poi Paolo Dybala, sesto gol in Serie A e 2-0. Spazio per il cross, Rispoli vuole effettuarlo subito, pallone interessante, Dybala, 1-0 con De Ceglie, esulta De Ceglie dopo 5 minuti, 1-0, limite dell'area, ancora Cassano, Cassano vuole calciare lui, Cassano, la battuta e poi De Ceglie, la doppietta di De Ceglie per il 2-0 del Parma, 31esimo minuto. E segna un gran gol, il gol dell'1-1. Marchese giocato dall'altra parte, il tocco all'indietro pericoloso, Carnezis e poi il gol del 2-1. 2-1. Nell'area di rigore prova a liberarsi Di Natale dentro, Widmer! 2-2, ha pareggiato l'Udinese. Vicino a Perotti, non aggancia, poi Matri! 3-2 Genoa, ha segnato Matri. Kuzka, prova Kuzka! Su Soriano, calcio di rigore per la Samp, parte Palombo, Sampdoria 1, Fiorentina 0, Rizzo, grande numero, Rizzo, il 2-0 della Sampdoria, il cross di Porcavallero, Savic, il gol della Fiorentina, parte Der ma è completamente isolato, 1-3, ed Der prova a passare, ed è... Funerale è la festa, mi sembra questo il titolo della puntata. Altro che come triste Venezia, come triste Milano in questi giorni, ma è fin troppo facile fare questo parallelo che tutti hanno fatto sui giornali, magari lo fa anche Pardo stasera a Tiki Taka, non lo so, adesso glielo chiedo. Facciamo pure noi, sole a Genova dopo il diluvio fisico, adesso sole calcistico, Milano, triste nebbiolina di novembre, giorno dei morti. Ciao Pier. Come va? Bene. Fai anche tu questo? Beh, parleremo. Ti prepari parleremo per questa, Tiki Taka. Ponte Milano-Genova, ponte della... Ma così, devo dirti la verità che da quando vivo a Milano, cioè ormai da una decina d'anni, l'assette, non me ne vogliono i milanesi, io a Milano sto molto bene, ma l'assette è proprio un sogno, no? I gamberoni rossi sono un sogno, come canta Conte, perché molto spesso capita di partire col brutto tempo e poi improvvisamente dopo Casei Gerola eccetera eccetera si apre, ecco, arriva la primavera. A me me la racconti? No, appunto, quindi questa, poi il mio amore per Genova è totale. Però sì, insomma, parleremo stasera, c'è Zamparini, c'è Amelia, c'è il signor Cruciani, c'è Telese, c'è Fraccero, c'è la Parietti, c'è la Barra, c'è la Satta, c'è Ciallini. Ecco, io non sono talmente tanti che potrei non esserci io, cioè me ne vado proprio in serenità. Andiamo, andiamo a mangiare pesce a Genova, io e te. Ma lasciali lì tutti, tanto vedrai che Mughini, qualcuno dal quinto piano. Sì. Oh no. Vabbè, ne parliamo tra poco. Ovviamente, insomma, la cronaca ci dice, ieri sera eravamo qui alle 7, io e Pardo Capuano, a dire, vabbè, Palermo forte, però è chiaro che il Milan, questa è una delle partite che devi vincere, non è che ci sono troppe storie. 0-2, per l'appunto. Inter 0-2 con il Parma, e tutto sommato mi sembra che ci sia una discreta altalena più che un campionato. Tutti convocati. Non eravamo partiti neanche malissimo, perché insomma, se magari sblocchiamo il risultato con quell'occasione di Poli e colpo di testa di Torres, magari andiamo in vantaggio e stiamo parlando di un'altra partita. Faccio mia colpa, insomma, io sono il primo responsabile di questa partita persa. Adesso la guarderò con calma e poi da domani rimbocchiamoci le maniche, perché abbiamo una trasferta molto difficile a Genova e non vediamo l'ora di ritornare in campo per riparare a questa brutta partita. Questa sera c'era anche uno striscione contro di lei che inneggiava al nome di un altro allenatore. Come si vive, insomma, in questo momento particolare? Dopo due vittorie e un pareggio col Napoli, che abbiamo visto squadra essere, si parla di questi temi, a me non me ne frega niente. Allora Pier, visto che stasera hai deciso di bigiare Tiki Taka per venire a Genova a mangiare il pesce con me, presenta Enrico Currò come faresti a Tiki Taka? Beh, Currò lo troviamo anche stasera a cena, perché è un grande genovese, è un diciamo che è il vero sex symbol di Repubblica, molto meglio di Sorrentino. Ciur Bad, come stai, Ciur? Dove vai a Genova? No, ma se non vado a Genova, conduco Tiki Taka, però col cuore a Genova ci andrei quasi tutti i giorni, perché lo dico, insomma, è una delle mie città preferite, è sul podio delle mie città italiane preferite sicuramente, e mi ci trasferirei anche se solo ci fosse qualcosa da fare di più continuativo. Si può comprare un gommone e tentare di andare a pescare, lo so, no? Infatti l'obiettivo è quello, lo so, però insomma, parliamo di Milan con Currò, sarei a Genova. Parliamo di Milan con Currò, cosa dici? Parliamo di Genova con Currò innanzitutto, o no? Bah, parliamo di tutte e due le cose. Lasciamo che Currò decida da dove partire. Scegli tu, argomento a piacere. Argomento con la scuola. Brevissimo su Genova, non c'è niente di strano. Le due squadre genovesi sono state fatte piuttosto bene, sono secondo me più o meno sullo stesso livello e hanno complessivamente una qualità tecnica che non è altissima, ma non è molto diversa da quella di Milan e Inter, quindi è normale che stiano, viste le concomitanze, favorevoli davanti a Milan e Inter in questo momento. Poi non so se lo saranno anche alla fine, ma stupirsi del fatto che due squadre più che decenti siano davanti a due squadre non più che decenti, evidentemente non regge, insomma, si poteva capire anche prima. Sì, però le distanze, classifica per città: Roma 38, Genova Torino 37, Milano staccatissima 31, poi c'è Verona 17. Sì, cioè, no, che la distanza Roma, fosse Roma così. Una partita in meno, stasera c'era, certo, Lazio, c'era Lazio. Risultato. Però Genova è veramente vicina al paradiso del calcio. Ha ragione Currò, squadre costruite bene, l'abbiamo detto fin dall'inizio questo. Però a quei livelli e con quelle facce così diverse, Pier, non ce l'aspettavamo. La Sampdoria è vulcanica come il suo presidente e il suo allenatore. Il Genoa è più compassato alla faccia di Gasperini e l'organizzazione che Gasperini conosce benissimo da quelle parti, perché praticamente è il doge di Genova. Secondo me il Genoa ha più talento complessivo, ha più solidità, e quindi alla fine poi sono due squadre che giustamente in classifica sono molto vicine. Il Genoa, insomma, soprattutto se continua la tendenza di un Matri che risorge e torna ai livelli di qualche anno fa, è una squadra secondo me da alta classifica, ha un portiere che nel giro della nazionale, ha qualche altro giocatore molto interessante. La Samp è una squadra secondo me un filo più modesta come qualità complessiva, ma una squadra nella quale tutti fanno meravigliosamente il loro compito. E poi comunque, insomma, Eder è un buon giocatore, Gabbiadini è un buon giocatore, Obiang è un buon giocatore, Romagnoli in prestito dalla Roma sta facendo benissimo, e addirittura Castaldello in qualche circostanza può riposare, Romero dopo l'infortunio di Viviano comunque si è fatto trovare pronto, quindi poi alla fine stiamo parlando di piccolissime differenze, di due squadre per me da metà classifica che sono partite partite molto bene e che adesso in questa classifica così corta si godono il loro quarto d'ora di felicità. Io auguro a tutte e due ovviamente di rimanere molto in alto e di centrare l'Europa, però non ne sono così sicuro, ecco, sinceramente. Mi sembra difficile. L'Europa League, ecco, l'Europa League può essere che una delle due riesca ad acciuffarla. Ma andiamo sul Milan, Curò. Andiamo sul Milan, allora io faccio un riferimento sempre alle genovesi, in particolare al Genoa. Ieri il Genoa a un certo punto ha fatto entrare Bertolacci, Antonelli e Kučka, se non vado errato. Quindi diamo un'occhiata a quella panchina, diamo un'occhiata alla rosa del Milan e vediamo che il Milan, che ha fatto giocare, con tutto il rispetto, Saponara titolare che non giocava da un sacco di tempo, evidentemente è una squadra che in questo momento è a livello di qualità individuale, parlo proprio di giocatori individuali, non è una squadra eccezionale, non è una squadra fortissima, servono altre cose, serve soprattutto la corsa, che secondo me c'è stata poco, e serve che ci sia una presa di coscienza del fatto che il Milan, che è quella che sta predicando Inzaghi, che il Milan non è quello, per il fatto di chiamarsi il Milan, non è il Milan con le tutte le lettere maiuscole, è una squadra normale che sta vivendo un processo di ricostruzione che richiede del tempo. Io ho visto Cagliari-Milan mercoledì scorso e mi è venuta spontanea una riflessione: i Barbu, Sao, Kossu in attacco, Conti, Krizetig e Ekdal a centrocampo, sono così diversi dai giocatori che stanno giocando in questo momento nel Milan? Secondo me no. Neanche secondo me. Poi il Milan mi sembra che abbia qualche equivoco tattico da sciogliere, no? Perché siamo sempre lì a discutere quasi per semplificare tra la squadra di Inzaghi e quella che vuole Berlusconi, Pier. Sì, io sono d'accordo sul fatto che ci sono equivoci tattici e che la squadra è un po', insomma, di vittorie veramente molto belle. Secondo me c'è stata quella contro il Parma, la seconda giornata, il primo tempo di Parma secondo me rimane il momento più alto della stagione del Milan. Poi ci sono state prestazioni così come i pareggi contro Empoli e Cesena, vittorie ottenute quasi di inerzia, quella in casa contro il Chievo, l'altra vittoria di grande prestigio oltre alla Lazio all'inizio di stagione, però Milan-Lazio era partita dove il Milan fa l'1-0 in contropiede al decimo minuto, nella quale nel finale rischia tantissimo, la vittoria di Verona, che però è un'altra partita condizionata da un clamoroso autogol. Non lo so, a me sembra che Milan non ha la costanza di rendimento. È chiaro che quando c'è qualcosa di positivo, come c'è stato per esempio a Verona, ci sono i titoli, c'è la classifica interessante, aumentano le prospettive, le aspettative, però poi insomma è una squadra che continua a fare stop and go. Lo fanno tutti stop and go, lo dicevo prima, più che un campionato sembra un'altalena. L'Inter 2 su e 1 giù, la Roma 2 vinte 3 perse nelle ultime, la stessa Juventus 3 vinte 3 perse, mettiamoci in mezzo anche la Coppa, non contando magari anche quelle pareggiate. Quella che sta avendo più continuità di rendimento è il Napoli, 3 vittorie e 2 pareggi, però anche la Lazio naturalmente, e una sconfitta in Svizzera, quindi l'altalena vale un po' per tutte. Probabilmente quella di Milan e Inter è un po' più estrema, Enrico. Sì, io torno sempre a Cagliari semplicemente perché c'è stata un'intervista a Tutto Sport di Zeman che ha rilanciato un vecchio cavallo di battaglia suo, ma anche in parte di Capello, anche se i due personaggi sembrano così antitetici, cioè a domanda sul perché le squadre italiane stentino in Europa, ha risposto che il problema delle squadre italiane è che sono poco allenate. Ora, questo concetto secondo me vale anche per il Milan e per l'Inter in campionato, non nel senso che siano allenate male, ma evidentemente c'è anche questo problema ed è un problema da non sottovalutare. Mi pare che la sintesi del discorso di Zeman sia questa: se un mezzofondista è in grado di fare i 1500 metri in 3:30, non lo fa perché si sveglia la mattina o perché ha talento particolare, lo fa perché 20 volte, 30 volte in allenamento ha fatto 3:30. Se le squadre italiane corrono meno è perché evidentemente non sono così allenate a certi ritmi e a certe intensità. Prendo l'esempio di Kossu, che è secondo me un ottimo giocatore, che però finora non aveva mai fatto quegli scatti di 80 metri che gli ho visto fare nella partita col Milan. Quando tu hai un ottimo giocatore e questo giocatore ha una base di fondo, ma soprattutto anche così delle sue caratteristiche, lo smalto che possono avere appunto questi brevilini, e l'aggiungi appunto, aggiungi queste doti fisiche alle doti tecniche, probabilmente riesci a fare la differenza. Mi chiedo, per esempio, il Milan ha un grandissimo talento che è El Shaarawy, perché su questo penso che non ci sia da discutere. Sì. Se El Shaarawy unisse alle doti tecniche che ha anche una base di allenamento, io non dico che non si alleni, per carità, tutt'altro, però dico che evidentemente serve spingere un po' più in là su questo tasto, perché poi quando andiamo a vedere la Juventus e la Roma a livello internazionale succede quello che succede, anche se non soprattutto per ragioni atletiche. Anche se non soprattutto è successo, secondo me, nel secondo tempo di ieri, che il Milan abbia ceduto di fronte al Palermo, nel senso che in teoria doveva reagire, doveva schiacciarlo, in realtà il Palermo lo ha potuto controllare con grandissima facilità. Se riguardiamo le azioni del secondo gol del Palermo e quella che l'ha preceduta e quelle che l'hanno seguito, le altre occasioni da gol del Palermo, vedremo che il Milan era in alcuni giocatori letteralmente inchiodato. Mi pare da lontano di poter dire la stessa cosa per alcune fasi delle partite dell'Inter. Ma a me sembra, io continuo a pensare che in Italia ci si alleni in un modo diverso, e credo che anche questo, ciò sia anche alla radice dell'enorme quantità di infortuni che dalle nostre parti ci sono. Enrico, ti ringrazio, io parlo, continuiamo dopo invece. A voi, ciao. Tutti convocati. In casa abbiamo avuto anche un calendario, insomma, di tutto rispetto, abbiamo incontrato squadre anche molto molto importanti, dal Napoli alla Juventus. Il derby ce l'hanno rubacchiato, se non eravamo davanti noi. Eccola là. Però no, penso sia stata un po' una casualità. Credo sia stata una casualità. Noi rammarico, abbiamo solo la partita con l'Empoli, quel gol di braccio così, e io credo che si debba tornare ad essere il nostro fortino. Penso che era unico sistema di gioco che ci poteva permettere di essere equilibrati, anche se a me non mi piace giocare con i tre difensori. È una sfiga su 24 giocatori avere solo tre infortunati e tutti e tre difensori centrali. Senti, dopo la sconfitta contro l'Inter avevi detto: una grande squadra non perde mai due partite consecutive. Allora la Sampdoria è una grande squadra? Ma per come ha giocato oggi, per quello che abbiamo visto sul campo, sì. Ovviamente dobbiamo crescere ancora molto, ma essere terzi dopo 10 giornate forse non se lo aspettava nessuno, forse un po' noi sì, ma altri difficile. Capito, Pierluigi, derby rubacchiato e la manina contro l'Empoli, se no Genova poteva essere anche più su. E nessuno si aspettava che la Sampdoria fosse così in alto, ma noi sì, dice Sinisa. No, volevo, secondo me quella storia, quell'argomento avviato da Gourò è un grande equivoco. Cioè non è vero che, da Zeman, non da Gourò in realtà, non è vero che in Italia ci si allena poco, anzi tutti quelli che vengono dall'estero dicono: Madonna, ma quanto si lavora da voi. Il problema è che ci si allena in modo molto diverso, cioè ci si allena sulla potenza, sul breve, su caratteristiche e su parti del corpo differenti rispetto a quelle su cui si lavora da altre parti, no? Sì, io credo che qualcosa nel sistema di allenamento possa e debba essere aggiornato. Noi abbiamo chiaramente la giusta fierezza, il giusto orgoglio di essere un paese dove ci si è allenati sempre bene, un paese calcisticamente, una grande scuola calcistica, e lo dimostra il fatto che i nostri allenatori, da Ancelotti a Lippi, vincono. Quindi complessivamente, cioè, non è che siamo diventati un popolo che non sa cos'è il calcio, lo sappiamo molto bene, però ci sono fasi della vita e della storia in cui ci possono essere alti e bassi. Sì, da questo punto di vista secondo me qualcosa deve essere aggiornato, non ho grandi dubbi, perché sì, l'intensità del nostro calcio quando arriviamo in Europa, al di là della qualità tecnica, è che chiaro che le due cose vanno di pari passo, più sei forte tecnicamente e più riesci a, e hai anche un risparmio dal punto di vista energetico, e un risparmio dal punto di vista della velocità e dell'intensità, no? Perché sì, se sei, sì, più sì, sei sì, bravo sì, e più diventa facile la giocata, e quindi quello, però secondo me l'intensità è poca rispetto agli altri paesi. Poi c'è un elemento probabilmente di stress, me ne parlò per primo Claudio Ranieri tanti anni fa al Chelsea, quindi parliamo veramente di 10-12 anni fa, sul fatto che in Inghilterra si giocano anche 4 partite in 8 giorni sotto Natale, e lui si era reso conto che non c'era poi questo livello di stress, di fatica che c'è invece nel calcio italiano. Quindi questo è un ulteriore elemento secondo me che deve essere tenuto in considerazione. Dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere sicuramente. Insomma, secondo me qualche segnale di crescita rispetto al passato c'è, cioè il punto più basso spero che l'abbiamo lasciato alle spalle, però dobbiamo ancora molto migliorare. L'ultima giornata di Champions lo dimostra, insomma, la distanza che esiste con le era lì, eravamo partiti però bene, però ti ricordi bene, per un paio di giri eravamo contenti, non è banale, ma certo. Ti voglio leggere questo messaggio perché arriva da Bangkok. Alessio scrive: buonasera, il fatto che le squadre italiane siano male preparate fisicamente non dovrebbe dipendere dagli allenatori, ciò significherebbe che gli allenatori italiani non sono bravi, però ne esportiamo, che gli allenatori stranieri che arrivano, ad esempio Benitez, disimparino tutto, qualcosa non torna, secondo Alessio. Ha ragione, il problema è che si gioca, secondo me, in un modo molto diverso e se vogliamo unico in Italia rispetto agli altri paesi. Vincenzo da Napoli, eccolo qui. Buongiorno, sento, per cortesia, volevo un'informazione tecnica, perché visto che siete tanti tecnici di lavoro, no? Come mai adesso la mettiamo sugli allenamenti, sulle preparazioni degli atleti? Volevo spiegarvi il motivo, per quale motivo? Sente, Torres, fino a 2 mesi fa giocava, no? Era quello che era. È arrivato a Milan, non gioco più a Torres, allora in Sacchi che non è buono, i preparatori che non sono buoni. No, io volevo una spiegazione. Lei senta, i guai di Napoli, no? I guai di Napoli, c'è una preparazione come perfetta. Sì. È Benitez che lo fa giocare, no? Un'altra cosa, chiedo scusa e poi finisco. Non sarebbe opportuno giocare con giocatori italiani, tutti questi stranieri, no? Adesso facciamo vedere gli allenatori, facciamo vedere i preparatori e noi ci andiamo a mettere i banchini tutti qua e guardiamo gli esteri. Sono per far giocare quelli bravi, poi il calcio, come dice mio amico Pardo, è materia liquida, Higuain che stecca 3-4 partite, poi arriva. Materia liquida, proprio sei innamorato. Sì, sta roba qua, mi è venuta la fissa. Quando mi sveglio di notte è la prima cosa che penso. Ho sede, no, materia liquida. No, però a parte tutto, insomma, il discorso degli stranieri e degli italiani mi appassiona pochissimo. È chiaro che questo semmai vale a livello di nazionale, ma questo è un problema che non abbiamo soltanto in Italia, il problema c'è per esempio in Inghilterra dove ci sono pochissimi inglesi e guarda caso la nazionale va malissimo, che fanno fatica a giocare in Premier League, quindi insomma... Va bene, dai. No, ma scrive giusto il solito Cro su Repubblica, no? Quando nota che non mancano giocatori inediti, finalmente, roba di qualità, Jabalà e Koulibaly, da Rugani a Valdifiori, da Babacarra a Mandragole, non importa se italiani o stranieri, piace molto Sportiello, ma stiamo vedendo anche, ragazzi, sempre stiamo vedendo anche giovani giocatori, italiani o non italiani, che stanno diventando in qualche modo protagonisti. Il Palermo ne ha messi in vetrina qualcuno ieri sera pure a San Siro. Savino, Milano, San Siro desertissimo, io non ho mai visto San Siro così vuoto su ambi i lati, Milan e Inter, come in questo periodo, segno proprio della grande depressione. Dica. Buongiorno, io non riesco a capire perché nel Milan non si riesce a esaminare le storie come stanno. In sostanza il problema del Milan, secondo me, è che Inzaghi non ha creato un gioco, non c'ha gioco Milan, non c'ha movimento senza palla. Io non riesco a vedere un triangolo del Milan, ho visto parecchie partite del Milan e fa una fatica a creare gioco da paura, nessuno corre senza palla, però alla fine nessuno critica Inzaghi, tutti continuano a dirsi è un bravo, la tifoseria lo protegge, il presidente, la dirigenza, però sono pochi giornalisti ad ammettere che il Milan non c'è gioco. Sì. Il Milan quelle poche partite che ha vinto le ha vinte perché ha fatto gol in contropiede, ma non ha mai creato una partita dove si vede giocare come giocano tante altre squadre, fa una fatica enorme. Quali altre? ma io anche ieri vedendo il Palermo giocare mi sembrava superiore al Milan. Ho visto la Fiorentina giocare, era superiore al Milan, vedo la Sampdoria, vabbè, fuori la Roma e la Juve, ma è proprio il modo di giocare, non c'è nessuno che corre senza palla. Allora, i tifosi della Juve dicono che la Juve non ha un gioco e criticano Allegri. La Roma non possiamo dire che non ce l'abbia, è anzi quella che ce l'ha meglio di tutti, però in questo periodo mi sembra un po' spompa, almeno la sensazione. La Samp sta giocando bene, il Napoli ha un gioco, il Napoli certo davanti sì, poi dietro becca un sacco di gol. Genoa e Lazio sono squadre equilibrate, l'Udinese è una buona squadra all'italiana, l'Inter non ne parliamo, l'Inter non ha un gioco proprio per definizione visto che c'è Mazzarri, e posso andare avanti per tutta la classifica, Sì, ma io infatti non... Io capisco, questa cosa succede spesso, ma voi giornalisti lo dovete dire, oggi il Milan ha perso col Palermo 2-0 e siamo tutti qui a dire che Inzaghi fino a ieri aveva fatto 6 risultati utili consecutivi, il Milan non sempre era stato brillante, io non penso che i giornalisti parlassero bene del Milan dopo Cesena-Milan, Empoli-Milan, ma anche tipo dopo la vittoria che io ho fatto per dirti la telecronaca di Milan-Chievo, insomma, mi ricordo bene quello che ho detto, non è che fosse un gran Milan quello, quindi... o a Cagliari, quindi insomma non, il trionfalismo non c'è, semmai c'è l'affetto dei tifosi del Milan, sicuramente ha protetto Inzaghi più di quello che è successo a Mazzarri, su questo non ci sono dubbi, insomma, Mazzarri ha sempre avuto il vento contro, Inzaghi ha avuto questa luna di miele che chiaramente dopo la sconfitta di ieri in parte si ridimensiona, ma insomma questo è... Non credo che nessuno abbia usato mi sembra una cosa abbastanza una masturbazione mentale. Ha un gioco, non ha un gioco, poi segni, vinci una partita e il gioco ritorna. Ancelotti, quante volte gli hanno rotto le scatole a Madrid che non aveva un gioco? Adesso ha fatto 11 vittorie di fila e sono lì a rincorrerlo con la carta e la penna per farlo firmare di nuovo. Quante volte gli ha rotto le scatole? Il Real Madrid non ha un gioco. Sì, ma questo è evidente. Poi lì ci sono anche, come ci raccontava Filippo Maria Ricci, anche delle dinamiche un po' diverse dovute al fatto che la stampa è molto legata ai presidenti e i presidenti sappiamo che sono molto affezionati sui loro beniamini. Mi ricordo sempre Calderon, quanto era freddo nei confronti di Capello nonostante la vittoria in campionato. Insomma, hanno delle dinamiche ancora più complesse. In generale a me sembra che insomma siamo di fronte a una, per quanto riguarda il Milan, a un work in progress. Ha una squadra che si sta costruendo, si sta facendo, che ha vinto 4 partite finora su 10, non è che ne ha vinte 9, ne ha vinte 4 e quindi il bilancio è così e che ieri per una serie di congiunzioni astrali, se avesse vinto poteva salire al terzo posto, questa è la sostanza. Ma il Milan mi sembra un cantiere, come un cantiere l'Inter, come un cantiere la Fiorentina, come un cantiere là in mezzo, ma tutte, dai, Napoli, ma tutte. Da questo punto di vista campionato divertente sicuramente, certo. Un campionato che fin qui ha una grande volatilità nella quale veramente con 2 risultati positivi fai un salto da una parte o dall'altra. Certo. Tutti convocati. Se cortesemente mi dice il livello di inglese di Mazzarri adesso. Mazzarri ha un livello di inglese diciamo da 6 meno, nel senso che riesce sulla materia calcistica ad interagire con il presidente a livello di SMS, ma può far di meglio. Però le chiedo il livello di italiano di Toir, perché è una delle tra virgolette critiche che vengono fatte simpaticamente naturalmente al presidente dell'Inter, ma quando riesce a imparare lui l'italiano? No, ho il dubbio che ogni tanto capisca, nel senso che ogni tanto ho la sensazione che quando parliamo in italiano capisca quantomeno il senso generale della frase, ma sul parlarlo è un po' più indietro di Mazzarri con l'inglese. Fassone in questo adagio relativo all'Inter, a Mazzarri, al tempo che gli resterà. Antonio Isernia, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, sono qui, sono qui, buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo dire che fino a questo fino a ieri sera sono stati fatti reali che mi hanno dato ragione, perché io su Inzaghi sin dal primo momento ho sempre nutrito dubbi e dubbi. Perché Inzaghi è venuto solo ed esclusivamente su un fatto che portasse entusiasmo. E no, perché non si è fatto le ossa, come si suol dire, non ha accumulato esperienza. È solo i fatti gli stanno dando ragione, torto, anche l'ascoltatore che diceva prima. Cioè, in poche parole, qua si sta scambiando lucciole per lanterne. E poi, signor Genta, nel periodo quando c'era Seedorf, che si doveva cambiare allenatore, mi ricordo che Van Basten disse, sue testuali parole, no, preferisco non andare al Milan, perché preferiva acquisire maggiore esperienza. Sì, poi ha fatto il CT dell'Olanda, poi ci ha riprovato da altre parti, poi adesso acquisire maggiore esperienza va a fare il vice allenatore di una squadretta olandese, poi dice che non ce la fa, evidentemente non è il suo mestiere fare l'allenatore. È chiaro che la gavetta serve, però l'essere stati, Inzaghi ne ha fatta una relativa nel settore giovanile, ma non mi sembra questo il nostro problema. Non è che il Milan ha preso Ancelotti, non aveva la possibilità di prenderlo, o non ha preso Capello, o non ha preso Van Gaal, o non lo so, andiamo avanti, ha preso un esordiente, un debuttante, non è che... Questi discorsi li facevamo anche prima, no? Sì, non è che nessuno ha mai pensato e nessuno fosse... ha mai parlato di una squadra da scudetto o roba del genere. Poi è chiaro che appunto il calcio è materia liquida, in onore di Genta lo ribadisco, e quindi poi il Milan è partito molto bene, ha vinto le prime due partite, a Parma ha fatto degli sprazzi di gioco di un certo tipo e lì c'è stato un po' di entusiasmo, poi c'è stato anche un po' di critica, no? Dopo Cesena, dopo Empoli, insomma a me sembra tutto... Mi sembra una diagnosi molto normale, molto normale. Certo, ieri mi aspettavo che Via vincesse, pensavo fosse una grande occasione, l'aveva detto anche Inzaghi. È chiaramente un risultato che rischia di condizionare molto la stagione, sì. perché proprio con questa classifica così corta, così stretta, è chiaro che la differenza fra era classica partita e fracasso, cioè tra fallimento e invece goduria, è molto molto stretta. È chiaro che dopo ieri il Milan adesso è sotto pressione. Ma poi potremmo in questo momento anche criticare, volendo, sto esagerando, però potremmo anche criticare Montella, perché era l'allenatore emergente, allenatore dell'anno eccetera, Fiorentina ha avuto un sacco di sfighe, sono d'accordo, ma guardi lì la classifica, 13 punti sono pochini, e ieri ha preso tre fischi con la Sampdoria, che mi sembra qualitativamente un po' meno forte la Fiorentina, o no? Ma assolutamente, la Fiorentina dopo quella prima eccezionale campagna acquisti, ma si ha Pradè, poi non è che sia cresciuta così tanto negli ultimi anni, ha chiaramente questo mega alibi degli attaccanti, però è pure vero che alla fine insomma qualche dubbio, cioè Giuseppe Rossi, faccio un discorso cinico, Giuseppe Rossi è potuto arrivare anche perché era una scommessa, mi ricordo benissimo i discorsi che si facevano a Firenze, perché se Giuseppe Rossi fosse stato, come gli auguriamo con tutto il cuore, di tornare a essere prima o poi un giocatore completamente integro, Giuseppe Rossi è un giocatore che vale 40 milioni per la qualità di punta che ha quel ragazzo lì, che è straordinario. Quindi certo non ci si poteva immaginare che Mario Gomez fosse un fiasco così, con tutti questi problemi fisici, quindi sicuramente c'è una componente di sfiga, però è anche vero che nell'ultimo anno e mezzo insomma la crescita grossa non c'è stata, prima il meraviglioso tiki-taka della Fiorentina non sta portando da nessuna parte, probabilmente perché non ha finalizzatori, probabilmente perché quel centrocampo ormai non sorprende più nessuno, quindi sai come giocare, come disinnescarlo, ci sono mille motivi, però se stiamo a dire che Inzaghi è una totale pippa, io direi possiamo metterci a discutere anche sul rendimento di altre squadre e di altri allenatori, quindi questo intendevo. Vincenzo Bergamo. Buongiorno signor Carlo. Dica. Allora senta, io secondo me il responsabile di questa crisi del Milan è uno solo. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Ho indovinato. Esatto. Ho indovinato, sapevo che lo stava per dire. Bravo, allora siamo in sintonia. No, io l'ho buttata lì, non la penso in questo modo, ma l'ho buttata lì, poi le rispondo, dica. Sì, ma lo sa perché? Perché lui è tutta la vita che si comporta in questo modo. Lui dà ordini e poi tanto se sbagliano la colpa è degli altri. Invece secondo me Berlusconi dovrebbe dare consigli, però cioè, non dare ordini, in modo che l'allenatore si prenda le sue responsabilità. Perché nel Milan non può far giocare in questa maniera adesso. Non possiamo giocare con quattro attaccanti e due centrocampisti solamente. Non siamo in grado, neanche atleticamente, secondo me. Sì, anche secondo me. Anche secondo me, poi onestamente il Milan al reparto del centrocampo ha i maggiori problemi di organico, secondo me, cioè il reparto più scarso che ha, Pier. Sì, questo ci sta, no, ma insomma su Berlusconi lo conosciamo, sappiamo benissimo quello che ha fatto, anche qui ovviamente esiste una storia e questa è una storia di successo, una storia di vittorie, non si può prescindere da questo. Stiamo parlando del più grande presidente degli ultimi 25 anni della storia del calcio italiano. Detto questo, poi è evidente che questo tipo di gioco, anche mediatico, se vuoi, del io do consigli ma se non fanno come dico io, l'abbiamo sentito spesso, insomma, fa parte delle regole del gioco. Sicuramente non è che quando il Milan vince il merito di Berlusconi, quando perde, certo, la colpa di Inzaghi, questo anche Berlusconi secondo me lo sa, ma magari non lo sa, io mi sveglio di notte, il calcio è materia liquida, lui si sveglia di notte, oh, abbiamo vinto, no, sono un grandissimo. Questa è una squadra, dai, una squadra discreta, con delle prospettive, con dei limiti, sì. E sta facendo quello che secondo me non sta facendo né più né meno di quello che era immaginabile facesse. Non, dai, è clamorosamente positiva, non è clamorosamente negativa. Certo, hai ragione. Ciao Pier. Sentiamo, devo al Bet Corner, poi GR, poi devo parlare con gli ascoltatori, a dopo. Quote e pronostici. Lunedì di campionato con due sfide di Serie A che completano il decimo turno del massimo campionato. Si parte alle 19 con la sfida del Manuzzi tra Cesena e Verona. Vediamo quali sono le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria del Cesena, è quotata a 2,75, l'X è a 3,20, il 2 invece con il successo dell'Hellas è quotato 2,55. È possibile anche indovinare il primo marcatore di questo match. Nel Cesena spicca il nome di Milan Djuric, quotato 8, De Frel 9, Brienza 10, Ugo Almeida 8,50. Nel Verona invece il favorito per essere primo marcatore del match è Toni, quotato 7, Nico Lopez è quotato 9, Juanito Gomez e Nenè sono quotati 10. Alle 21 poi il piatto forte con Lazio Cagliari in campo all'Olimpico, con l'1 la vittoria della Lazio quotata 1,60, l'X è quotato 4, il 2 invece con il successo del Cagliari è quotato 5,25. Interessante anche le quote del gol, quotato 1,73, e del no gol, quotato 2. È possibile anche per questa partita indovinare il nome del primo marcatore, con Djordjevic nella Lazio quotato 5, così come Klose, Candreva 8, Sau nel Cagliari 9, Kossu 15, Ibarbo 12. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci domani. Tutti convocati. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante è quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? Ho cercato anche di distemperare un po' la situazione, anche perché avevamo due partite di qualificazione. È inevitabile che oggi nel campionato italiano ci sono due squadre, che sono Juventus-Roma, e penso che da qui alla fine sarà un duello tra loro due, no? per chi vince lo scudetto. Ed è inevitabile che da qui alla fine ci saranno anche scontri dialettici, però bisognerà sempre stare molto molto attenti, cercare sempre di mandare dei messaggi positivi. Sotto tutti i punti di vista, per me è molto importante che poi quando si arriva in nazionale non ci si porti dietro i veleni, ecco, ma questo non accade perché ho ragazzi molto intelligenti, molto bravi, soprattutto grandi uomini. De Rossi è uno di quei giocatori che ha che ha sentito tanto, ecco, la delusione dell'uscita al primo turno nei campioni del mondo, ecco. Da parte sua ho trovato grandissima disponibilità, grandissima voglia, grandissimo attaccamento alla nazionale italiana, un grande esempio per i più giovani. Il primo anno appena arrivato alla Juventus mi sarebbe piaciuto averlo e ho provato anche, però lui ha sempre pensato alla Roma, ecco. Dichiarazioni di stampo prettamente democratico cristiano di Antonio Conte, cioè se dobbiamo farli parlare per sentire queste banalità, beh, possono anche loro signori stare zitti. Poi ci lamentiamo quando invece escono un po' dalle righe e hanno delle visioni. Ho visto la mia Roma che vincerà lo scudetto, tutti addosso all'eretico Garcia, come si permette? Vabbè, c'è Carlo da Bergamo che mi sta massacrando di messaggi perché vuole sapere cosa ha fatto Matteo Caccia nella maratona di New York. Poi te lo dico, Carlo da Bergamo, poi te lo dico. Poi parleremo anche di motori, non di Formula 1, magnifica gara della Mercedes, Alonso sesto, dov'è la notizia, non riusciamo neanche a trovare Leo Turrini. A proposito, faccio un appello pubblico, Leo Turrini, se sei in ascolto fatti vivo che ti stiamo cercando, se no ci sentiamo domani. Andrea Ascoli Piceno, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sono tifoso del Napoli, sto gongolando, no? Gongolando per la sguarrata che gli abbiamo fatto alla Roma. Sguarrata, sì. Niente, io in pratica poi a proposito della Roma. Della Roma. Ma sta Roma, no? Dico, il doppio impegno si vede che non lo gestisce. Perché vediamo. È palese che da dopo Bayern Monaco, sta brutta sconfitta, ma ce ne sarà un'altra sicuramente mercoledì. Sì, quanto quella di mercoledì, allora ne abbiamo già parlato di questa gara. La Juventus si gioca la vita, no, domani contro l'Olympiakos, e questo è evidente, cioè o dentro o fallimento, non ci sono vie di mezzo. La Roma ha una situazione molto diversa, in un girone molto diverso e anche con pesi molto diversi, perché nessuno le ha chiesto a priori di fare così tanta strada in un girone così difficile di Champions League. Può giocare tutto sommato con il cuore libero, però è chiaro che la gara di domani a Monaco per la classifica conta il giusto oppure niente, conterebbe solo in caso di improbabile vittoria. Però è anche evidente che se ne becchi 7 o se fai una brutta figura, le ripercussioni le abbiamo viste, ci sono state ed è inutile negarlo. Quindi qui sta il discorso, a Monaco può anche perdere, dipende però come. Cristiano Milano, buongiorno. Sì, ciao. Ciao. Allora, dimmela. Intanto volevo ringraziarti per la maglietta di tutti i convocati che mi è arrivata recentemente a casa. Che meraviglia. Ti piace? Bella, Sì, sì, è bello. Ho fatto un po' fatica a decifrare gli autografi, però alla fine sono arrivato alla conclusione che uno è tuo e l'altro è di Pierluigi. Esattamente. Ok, dunque, fatti questi doverosi ringraziamenti, e volevo introdurre un argomento sul quale mi avete forse anticipato poco fa. Allora, io guardo la classifica e vedo tante squadre davanti, poi vedo Milan 16, Inter 15. C'è un punto di differenza. Allora, non più tardi di 3-4 giorni fa il presidente Berlusconi ha dato come voto all'esperienza di Inzaghi sulla panchina del Milan 8. Sì. Mazzarri è sulla graticola da 2 anni. Sì. Mi chiedo, è giusto che ci sia questa differenza dei due allenatori? No. Considerando che c'è un punto di differenza in classifica? No. E allora perché c'è? Dimmelo tu. Sei tu che sei interista, sei tu che vai allo stadio e senti tutta quella gente fischiare, sei tu che percepisci questa ostilità ingiustificata molto spesso nei confronti di Mazzarri, perché è chiaro, la classifica non è una meraviglia, però a me è capitato di sentir dire da voi, da qualcuno di voi a questi microfoni, vabbè, ma abbiamo vinto, è vero, abbiamo fatto 2 vittorie di fila, però con 2 rigori, e allora? Cioè, l'anno scorso non li davano e c'era tutto quel casino. Adesso danni rigori, si vince sul rigore, non va bene neanche così. Mazzarri a rogo. Secondo me c'è poco equilibrio nella valutazione di quello che sta facendo Mazzarri. C'è molta prevenzione invece, perché abbiamo provato a ricordarlo nei giorni scorsi. Smentiscimi se vuoi, però questa ostilità nasce dalla gestione dello scorso finale di stagione con la vicenda Zanetti, quel derby giocato malissimo Zanetti, che non partì titolare una partita di addio, eccetera eccetera, lì si è rotto qualche cosa e da lì tutti a fischiare Mazzarri. Ma guarda, va bene tutto, però stiamo parlando di un monumento della storia interista che aveva 41 anni ed era reduce da 6 mesi di infortunio perché si era rotto un tendine. Sì. Quindi considerando che ci sono anche degli obiettivi che hanno la priorità, per minimi che siano, come la qualificazione in Coppa UEFA, sì. Io guardando la rosa dell'Inter, che 5 anni fa non ce n'è uno che avrebbe giocato, ma non nell'Inter del triplete, ma neanche dell'Inter dei record di trappattoni. Vabbè, ma perché, ma questi, scusa, no? Cristiano, ma perché di quelli che ci sono nel Milan adesso, quanti avrebbero giocato la partitella del giovedì con la Solbiatese nel Milan, no, di Sacchio, di Capello, di Ancelotti? Quanti? Io dico, prima di Fitti, ma probabilmente non lo so, uno o due, diciamo. Sì. A me piace molto il Sharawi nel Milan. Per che cui... non segna da 20 mesi, vabbè. Che non segna da 20 mesi, però di questi non ne ha giocati 19, per cui vabbè. Infatti io dico una cosa, prima di criticare Mazzarri, andiamo a vedere la rosa che abbiamo, perché secondo me con questa rosa... Che non è così scarsa tenuto conto degli obiettivi. Secondo me, che non è così scarsa tenuto conto degli obiettivi. Se mi dici con questa rosa devi vincere lo scudetto, ti dico che sei matto. Se mi dici con questa rosa prova ad arrivare terzo in questo campionato e magari punta forte sull'Europa League, allora io ti dico si può fare. Quindi non è così scarsa. Grazie Cristiano, ci sentiamo presto. Carlo, provincia di Fermo, buongiorno. Buongiorno, sono Carlo, chiamo da Sant'Elpidio a Mare, provincia di Fermo. Intanto vi ringrazio per avermi richiamato. Ma grazie a lei. Poi io tifoso di una squadra che a mio avviso manca solo di partorire, dopodiché ha fatto tutto, scusate. Però ecco, io direi una cosa, rispondo io a sto ragazzo. Pippo Inzaghi nella primavera ha fatto grandi cose e ha preso in mano una squadra rottamata, perché dopo la vendita di Thiago Silva, Ibrahimovic e Pirlo è tutto da rifare, o quasi tutto, per cui io penso, però io penso che tutto quello che fa, anche se dovesse finire il campionato sesti, settimi, io penso che tutto quello che fa, ecco, penso che sia un anno di prova, che dopo ci sia da rinnovare, sono anch'io dello stesso parere, e non mi sento ugualmente di mettere Mazzarri sulla graticola, perché era soltanto un neo soltanto negativo a mio avviso, che quando viene intervistato sembra che un po' se la tiri via. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ascolto sempre molto molto volentieri. Bravo Carlo, anch'io la saluto, la ringrazio, l'abbraccio e sono molto invidioso perché vorrei essere al mare con lei. Sua vita, Sylvain Guittoli, padre di famiglia, padre di 4 figli, papà e marito, sulla moto a 230 cavalli, è una poesia la sua, taglia stretto sul cordolo, come fanno i piloti veri, quelli che non devono pensare agli affetti a casa, quelli che il rischio è il mio mestiere. Sylvain Guittoli, il francese, un po' bistrattato, considerato un po' anonimo, per la verità si sta riscattando. I don't think it's sunking at all. I can't believe it. I've been picturing this last month. I've been picturing this double win all month, and I knew I had it in me somewhere, but I didn't know if I was going to find it. And those races were just great. I just felt so good with the bike. It just felt amazing. I never felt so good riding any bike before. So I just enjoyed that so bad. It's just been such a hard work all season, trying to not make too many mistakes, and Tom has been very fast and consistent all the while. Il muretto Aprilia è tutto affacciato, l'occhio della tigre con una lacrima che scende, butta in avanti verso il traguardo. Guittoli c'è ed è campione del mondo. Davanti ai suoi bambini, una fotografia straordinaria, le lacrime hanno sapore opposto, dolci sul viso della signora Guittoli. Allora, alle 15:12 per la cronaca ho ricevuto questo messaggio. Genta, io la stimo, ma non si può non dedicare e annunciare la vittoria della tecnica italiana. L'Aprilia ieri ha vinto il mondiale del mondo, il campionato del mondo Superbike. Cavolo, è una vittoria importante per l'industria italiana. Non esiste solo la MotoGP. Caro Genta, me l'ho scritto Leo D'Acento. Caro Leo D'Acento, le presento il professor Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Carlo, beh, devo dire che un po' ha ragione, perché si parla sempre di MotoGP e è la vittoria del Made in Italy, perché l'Aprilia sa fare le moto molto bene, quelle che corrono. Ieri ha portato una bomba per il suo pilota che con toglieva la marsigliese esatto, che toglieva gli adesivi alla rivale. È stato bello perché Kawasaki è arrivata con 12 punti di vantaggio ed è uscita sconfitta. Ha vinto l'uomo normale, il padre di quattro figli. Davvero, risentire Meda e pensare alle immagini sembrava quasi una fiction, era troppo bello da vedere. E devo dire che è stato un bel lavoro di squadra. Ghintoli è l'uomo appunto normale, vince quando serve. Pensa che in 119 presenze ha vinto solo 9 volte, di cui 5 quest'anno. E se l'è meritata, perché il compagno di squadra Melandri non l'ha aiutato, ma questo è il bello della Superbike, e così è stato anche per il rivale Sykes, perché mentre nelle auto i giochi di squadra si fanno come, nelle moto praticamente non esistono. Ma poi sai cos'è il bello, Carlo? Che le auto sono radio guidate, quindi la macchina va forte o piano a seconda se dal box qualcuno schiaccia un tasto. E invece qui, ragazzi, è tutto un punto di domanda, perché conta tanto di più il pilota, la parte umana, e soprattutto non c'è telemetria ma c'è acquisizione dati, cioè le moto non vengono gestite dal box e quindi può succedere di tutto. L'errore umano è sicuramente più frequente e la variabile è molto più grossa, quindi diciamo che lo spettacolo è maggiore anche per questo. Però una bella affermazione, ecco. Sì, in una Superbike, diciamo la verità, un po' in crisi da molti punti di vista, no Roby? Perché si discute del futuro di questa molto, formula. Molto in crisi, il padrone è lo stesso del MotoGP, ovvero la Dorna, e tanti dicono che chi ne rimarrà solo uno, perché è inutile avere un doppione. Le moto di serie da cui derivano queste moto da corsa sono in crisi nel mercato, i numeri non giustificano più tanto, e quindi insomma è sempre stato un po' la Serie B. Mancano piloti carismatici, perché manca il personaggione, manca il Valentino, ma anche qualcos'altro, quindi c'è poco da commentare, ecco. Ci saranno forti sorprese anche l'anno prossimo, perché si dice, questi sono rumors, che il buon Guido Meda potrebbe tornare al suo primo amore, e quindi MotoGP, andando su Sky. Questi sono rumori, ma sono sempre più forti. Staremo a vedere cosa sarà di questa disciplina. L'importante è che non si sovrapponga con la MotoGP. Spettacolo ne dà, noi vorremmo vederne sempre di più e vorremmo che avesse delle conseguenze sul mercato. Ma purtroppo è uno sport costoso, le moto sportive. Io ho letto, non ho dimenticato l'anno scorso il discorso fatto da BMW, che è entrata in questo circo, ha messo un pozzo di soldi in questo circo e poi ha detto: ma io mi tolgo, con le moto ufficiali vado via, probabilmente non ne vale la pena. Era un discorso emblematico quello, che ha avuto le sue conseguenze, e così sarà per Aprilia, perché l'anno prossimo ha dichiarato andrai a MotoGP. Corannino, adesso ci buttiamo nell'avventura MotoGP, che volendo leggere fa questo anche per quotarla sempre di più, cioè perché siccome vuole portarla su, per poi si dice che fare di questo marchio chissà, e quindi ci sono anche queste voci dietro al passaggio. L'unica cosa positiva è che ritorna Yamaha, perché tra pochi giorni, domani, presenteranno la moto ad EICMA, ci sarà il salone, ci sarà la nuova R1. Questa non è promozione, però il pubblico l'aspetta da tanto tempo e ritornerà ufficialmente alle corse. Questo è una buona notizia. Sì, questo è certamente una buona notizia. Senti, che pilota è Ghintoli? Ghintoli è un onesto lavoratore, è l'antipilota carismatico, silenzioso, serio, andava forte sul bagnato, poi hanno creduto in lui, è la formichina che mette via, non fa impazzire perché appunto non ha questo carisma, però è una brava persona, e quindi fa piacere vedere che vinca anche una persona così brava, normale, serio, responsabile. Non ha mai fatto nulla che potesse inficiare il suo valore come uomo, anzi sì, non ha la battuta pronta, non è così simpatico, però alla fine quello che conta, me l'hanno sempre segnato le gare, è il nero su bianco, quello che rimarrà negli annali. Sicuro. In quell'anno l'albo d'oro. Che e lui alla fine, d'oro, cioè, dopo tanti anni di onesto lavoro col manubrio, un mondiale se lo merita. Ha vinto poco, è vero, aveva una moto decisamente superiore alle altre, perché Aprilia fa la differenza in questa disciplina, aveva le condizioni migliori, non se le fate scappare. Un'ultima cosa, la stessa moto ce l'ha anche Marco Melandri, ecco. Dai un voto alla sua stagione, quarto in classifica mondiale, 333 punti contro i 416 di Ginter. Insufficiente, perché ha un potenziale che è spaventoso. Melandri non va forte di più. Il problema è che vince quando non serve e perde quando dovrebbe invece vincere, e quindi alla fine ci vuole anche la testa oltre alla manetta. In lui spesso sono scollegate queste due cose. Se ci fosse un dialogo fra i due componenti, sarebbe un Valentino 2 un po' più basso e con meno carisma. Però come potenziale, a detta dai tecnici da 10 anni, non sono io a dirlo, è veramente un pilota forte. Purtroppo è troppo altalenante e alla fine sta buttando via degli anni, e quindi insomma staremo a vedere. E poi quando gli hanno chiesto di non vincere perché doveva regalare punti preziosi, non l'ha fatto. E lì c'è stata una questione veramente brutta, la Aprilia non è uscita bene come immagine. Meno male che alla fine ha vinto costruttori e pilota, quindi certo. mettiamo un made in Italy, che di questi tempi ci bravo, vuole bravo. Grazie Roberto. Grazie Roberto Lungaro, direttore di Riders. Emilio da Salerno, buongiorno. Mi dica. Io ho scritto una poesia sul calcio, sulla bellezza del calcio che identifico in Baggio. La voglio sentire subito. Guardi, la può consultare sul sito? No, come sul sito? La voglio sentire da lei. Me la può leggere? Certo. Vada, via. 14:30, si parte tra poco. Inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti per un gioco antico con moderni miti. Tripudio di cori, bandieri e vessilli, sodono assordanti di tromba gli squilli, e si intravede lontano il sottopassaggio il divin codino del divino Baggio. Un dubbio passale, ma non sono certo, è lui il mio amore, è proprio Roberto. Sfiora il terreno, incrocia le dita, si sogna di croce per la partita. Di sole e di luna, fulgido raggio, illumina il gioco, infonde coraggio. Incita la squadra, la viva contesa, vibrano i cuori. Fremente l'attesa, ma mentre folleggia l'erede di Achille, gira armato un grosso imbecille, affonda la lama, toglie la vita, questo alla fine di una partita, e questo è l'assassino di Spagnolo. Ma mentre folleggia l'erede di Achille, c'è chi non corre, non fa faville, passa il tempo in tanti ospedali, non la ricordo tutta. Comunque un applauso, grazie Emilio, grandissimo. La può consultare lei, per piacere? Sì, la consulto io, ci guardo io. Allora l'indirizzo è web.tiscali.it /Simone Vitale. Va bene. Simone Vitale. Uno dei tifosi di Salerno che morì sul treno e ha vinto da Piacenza. E quindi abbiamo messo insieme poesia del calcio e atti criminosi legati al calcio in questa composizione. La consulto di sicuro e la ringrazio intanto. Grazie mille. Borsa. Convocati. Marco dalla Varese. 14:30, si parte tra poco. Inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti per un gioco antico. Se volete la faccio risentire tutta, ma tanto abbiamo l'indirizzo, quindi chi vuole può scaricare. La mettiamo su YouTube, facciamo qualcosa anche con Twitter, abbiamo Facebook, non lo so, la mettiamo su YouTube, Twitter, Facebook, facciamo dei manifesti, il sito ce l'abbiamo, l'indirizzo ce l'abbiamo. Marco da Varese. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Marco da Varese. È la vostra buona. Ne ha una anche lei? No, per l'amor di Dio, visto periodo, io sono milanista, periodo di calendario, dice di lasciar perdere. io volevo intervenire. No, se vuole declamiamo qualche poesia, qualche classico. La nebbia sana gli erticolli, piovigginando sale. O Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e. Fate le tue risate, li vedete tutti seri! Fuggitivi, Marco. Buongiorno, sì, dica. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Allora, io sono milanista, volevo dire un milanese della metà di Milano che sta peggio, mi sono già declamato milanista, perché secondo me il Milan è messo peggio dell'Inter, per un semplice motivo. L'Inter può ancora sperare di cambiare, di fare, di disfare, Mazzarri via. Il Milan, alla luce di quello che è successo, di Gagliani che sei letteralmente, io anche lì nessuno ne parla più, è riuscito a estromettere la figlia del proprietario. Il Milan è vittima. Ma oppure la figlia del proprietario è riuscita ad estromettere Gagliani, poi dipende da come la si legge. Ma, no? Ma in qualunque paese, no, paese è una parola grossa, però in qualunque azienda, sì, tra virgolette normale, la figlia del proprietario può comunque limitare l'amministratore delegato, mai succede il contrario. Qui c'è qualcosa che non va. Berlusconi, vabbè, si sa, al giocattolo che ha tanto amato, che ha tanto fatto bello, adesso non gli serve più, ma piuttosto che lasciarlo magari a qualche bambino meno bravo di lui lo distrugge. Il Milan era di Sidor qualcosa che sembrava veramente, perché se no aveva lo spessore d'allenatore del Milan. Inzaghi vive in luce di riflessa, è un Milan che veramente è un disastro. Io sono stato abbonato al Milan di Sacchi e di Ancelotti, non pretendo, non diventerà mai più così. Sì, è anche una questione di giocatore, Marco. È anche una questione di giocatori. Continua a far passare Torres come un'ira di Dio. Ma come Torres, Torres deve giocare, perché è l'unica figurina importante che Silvio Berlusconi è riuscito ad appiccicare sull'album quest'anno. Quindi chiamiamolo uomo da vetrina, chiamiamolo, non lo so, portabandiera di un Milan che non c'è più, chiamatelo come vi pare Fernando Torres, però è evidente che è stata l'unica figurina che è riuscita ad incollare sull'album e quindi deve giocare. Pazzini ovviamente non gioca più e sua moglie va su tutte le furie, e Charawi non segna da 20 mesi, tra luci e ombre, ombre e luci. Il Milan migliore era quello dell'inizio, con, si ricorda, abbiamo detto molte volte, Menez falso 9, ma magari è stato qualcosa di estemporaneo, non poteva essere una soluzione definitiva. Il Milan ha poca qualità a centrocampo, pochissima secondo me. L'unico giocatore che ha già in casa che può portare qualità quando starà bene sarà Montolivo. La difesa così, perché insomma Zapata e Rami centrali non mi sembrano esattamente due mostri da battaglia. Cosa resta? Un buon portiere, resta certamente De Sciglio. Sotto il vestito cos'altro c'è? Pochino. Nulla, pochino, però io dico, non sarà tutta colpa di Inzaghi. Io credo che il Milan stia facendo grosso modo quello che ci si poteva attendere prima di queste 10 giornate di campionato. Cioè, mi avessero detto dopo 10 giornate di campionato Juventus 25 Milan 16, avrei detto sì, ci credo, non ho problemi a crederci, tutto secondo pronostico. Visto però quello che c'è in giro, quindi con squadre che fanno una fatica pazzesca a trovare continuità di risultati, anche il Milan può buttarsi in questo mare strano e magari nuotare fino al terzo posto, anche se continuo a pensare che il Napoli tra tutte queste sia quella che ha maggiore qualità, la Lazio che deve giocare stasera quella più quadrata. E che dal punto di vista dell'organico, se non continuano ad autofustigarsi all'interno dell'ambiente, l'Inter abbia un organico superiore al Milan. Questo è ciò che penso io. Grazie Marco. Luca, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno signor Genta, sono Luca, chiamo dalla provincia di Varese, grazie per la convocazione e complimenti per la trasmissione. Il suo poeta preferito? Non ne ho idea. Mio è sempre stato tra gli italiani Leopardi, poi aveva una predilezione per quei pazzi francesi, Baudrillard, Rimbaud, Mallarmé, questa gente che... Vabbè, farei volentieri un programma di poesia, ragazzi. Dica, Luca. L'ascolterei volentieri. Niente, io terra-terra mi limito a parlare di calcio. Per quello che ne posso conoscere, posso sapere. Tifoso purtroppo interista e non ce la facciamo più a sopportare Mazzarri. Io l'ho visto nell'ultima partita contro il Parma, ma già anche contro la Sampdoria, che tutto sommato è andata bene. Come ha detto lei prima, non lamentiamoci, cioè abbiamo preso il rigore, abbiamo segnato, abbiamo vinto e va bene. Ma contro il Parma, come si fa ad avere un allenatore in panchina che guarda nel vuoto, che non sa più cosa fare, che alla fine della fiera c'ha una rosa, per amor di Dio, non sarà la rosa del Real Madrid ovviamente, ma per la mediocrità del calcio italiano mi sembra che possa essere anche una buona rosa. Dei giovani, che lui dice che ha lanciato i giovani, quali sono i giovani che ha lanciato? Ormai qualche anno che gioca in Italia tra Inter, Parma e compagnia bella. L'ha fatto esordire l'altra sera quel poveraccio di Bonazzoli che nella primavera gioca a punta centrale e ha fatto fare l'ala destra. Luca, però non è che ne ha molti al reparto davanti, perché tolto Icardi con Palacio, che poveretto, mi sembra che il meglio l'abbia già dato negli anni passati, il meglio sia alle spalle. Osvaldo infortunato, non ne ha molti altri. A Bonazzoli, in Bonazzoli io so per certo, Mazzarri ci crede. E poi, insomma, detto questo, guarda nel vuoto. Insomma, io credo siano occhi un po' prevenuti quelli che vedono Mazzarri che guarda nel vuoto. No, credo che abbia francamente molti problemi nel far quadrare i conti a centrocampo, perché io continuo a ritenere che Medel, Kovacic ed Hernanes insieme non siano esattamente la soluzione migliore. Icardi, che è intoccabile in questa squadra, almeno fino a quando non c'è Osvaldo, è un giocatore che, come dice Boban, sono d'accordissimo su questo, se non segna giochi in 10, perché non... come dicono quelli bravi, non fa salire la squadra, perché vuole la palla sui piedi, perché non dà profondità alla squadra. Dunque è una squadra che ha, secondo me, alcuni difetti oggettivi calcistici al di là di Mazzarri, e Mazzarri fino adesso non è riuscito a risolvere molti di questi difetti. Probabilmente l'unica cosa che dovrebbe fare è scegliere la sua squadra, visto che è in piena e aperta contestazione e di lì non esce. Da questa contestazione dovrebbe scegliere i suoi 11, quelli di cui si fida, il suo assetto, e andare con quelli. Questa è la mia opinione. Antonio. Che poi era una trasmissione che non c'entrava niente con i camionisti. Diceva Antonio. Scusi, stavo parlando di un'altra persona. Diceva era una trasmissione che non c'entrava niente con i cannoni. Quale? No, con i camionisti. Tanti anni fa era un'intervista, cioè aveva chiamato un mio amico, aveva parlato di camionisti, ma non c'entrava niente con il ragionamento del momento, no? Stavo facendo un commento, come mai aveva parlato di quella. Sì. Solo quello. Non ho molti amici camionisti, a cominciare da Dario, che mi scrive tutti i giorni un SMS. Normalmente mi dice basta, ma basta con cosa? Io non lo capisco. Cioè basta con tutto, basta con... Ma io adesso sono in... devo aspettare ancora. No, dica. Parlavo del problema Milan. Io non sono un grande intenditore, però immagino che tutti sia all'occhio di tutti cosa vale Zapata. Cioè forse sarebbe meglio giocare in 10 oppure comprare due difensori in meno, un attaccante in più e un attaccante, due difensori in più, scusa un po' l'emozione, comprare due difensori in più, un attaccante in meno, che forse faremo qualcosa. Lei dice non capirò molto di calcio, invece mi sa che ne capisce più di molti altri. Ma Berlusconi i difensori non interessano, ma storicamente Berlusconi, se può farne a meno, ne fa a meno. Poi è chiaro che allora ti serve Baresi, ti serve Nesta, ti serve Thiago Silva, e senza questi dura vincere con Zapata. Poi puoi ammassare davanti tutte le punte che vuoi, però questa è sempre stata la filosofia aziendale: vinci con Stam, vinci con questa gente, insomma, che il Milan forzando un po' la mano al suo proprietario, ma quando i soldi erano molti molti molti molti, riusciva anche a comprare e poi a tenersi, perché Nesta è stata, lo sapete tutti, è stata la fortuna del Milan per molti anni, Thiago Silva per qualche anno in meno, non parliamo di Baresi, di tutti quegli altri santi protettori, se no la storia si fa lunga. Tutti convocati. Breaking like a rival who was making his way to the cities of Mexico. Living in a apartment out on Avenue A, at a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. The world won't wait, so I bet she left me right out there through the door. Ma io non lo so cosa sia successo oggi agli ascoltatori, non capisco questa forma di perversione totale, però ho ricevuto una quantità inusuale di messaggi che mi domandano come sia andata la maratona di New York di Matteo Caccia. Mi domando il motivo. Matteo Caccia, buongiorno. Ma sinceramente me lo domando un po' anch'io. Buongiorno Carlo. Ti giuro, non sto scherzando, sono qui da leggere e da vedere. Carlo da non mi ricordo dove, poi un altro che risponde, anch'io sono interessato a cosa ha fatto Matteo Caccia a New York. Quindi? Guarda, allora diciamo, partiamo con il risultato sportivo, nel senso che senza veramente diventare Linus, che poi diventa noiosissimo, però ha fatto, il tempo è stato, per chi ne sa qualcosa, 4:32. 4:32. Non è male, eh? Tutti bravo, mi dicono essere un buon tempo. Certo. Quello che ha vinto in 4:09 ieri, in 2:09 mi pare. Sì, vabbè, ho capito. Però lui è keniano. È keniano, lo fa per mestiere. Insomma, la maratona di New York è fatta da gente che va lì a correre e a partecipare, e da gente che va lì a vincere uno degli eventi sportivi più importanti del mondo. Quindi. E infatti, al di là del risultato sportivo, quello che posso dirti è che credo di avere dato un numero di hi-fi forse superiore al migliaio tra tutte le persone ai bordi della strada, che alla fine mi facevano quasi più male le mani dei piedi. Ho preso un numero di fazzoletti Scottex incredibile, perché uno non ci pensa, però faceva un freddo cane. Gradi, quanto corri, temperatura? Temperatura qual era? Il naso. Che temperatura c'era, Teo? Sì. Faceva molto freddo la mattina, tieni presente che ti fanno aspettare 3 ore e mezza per chi partiva tardi come me nel forte alla base del ponte di Verrazzano, ed erano 7:30 quando siamo arrivati. Io sono partito alle 11, c'erano credo tra i 3 e i 4 gradi e c'era vento forte, quindi sembrava la fiera degli abiti. Sembrava la fiera degli abiti usati, perché poi li abbandoni lì e gli abiti li danno alle persone che hanno bisogno, quindi c'era più o meno gente vestita come sciatori degli anni 70 in questo forte, che poi abbandonava la roba per strada correndo. Però appunto c'era un vento fortissimo, ma mi dicevano che si è visto anche dalle immagini dei professionisti, no? C'era un vento davvero fastidioso, figurati per disperati come me. E quindi prendevo questi Scottex dalle persone ai bordi della strada, che oltre a urlare "You're doing great, come on, go, go, go", ti davano i fazzoletti di carta, oltre a suonare per la strada, a darti gli hi-fi, eccetera, eccetera. A darti gli hi-fi. Sì, dove capitava, tra l'altro, te li davano, quindi era meglio porgere la mano. E quindi momento più difficile quando hai visto la Madonna sulla traversa? Allora sì, anche insieme a San Giuseppe. Tieni presente che io avevo fatto il mio lungo più lungo, cioè l'allenamento che ti prepara in teoria ad arrivare ad uno sforzo lunghissimo, perché per la maratona dipende tra i 30 e i 35 chilometri, il mio era stato di 25, perché la mia preparazione era stata abbastanza concentrata. E quindi io sul 25esimo chilometro ero sul ponte che dal Queens ti porta a Manhattan, quindi io avevo davanti a me 17 chilometri di terra di nessuno, cioè non sapevo cosa sarebbe successo in quei 17 chilometri, perché non li avevo mai fatti. Quindi il momento più difficile per me non è stato quello, perché quando entri sulla First Avenue ci saranno 70.000 persone lungo la strada che urlano e non te ne rendi conto. Il momento più difficile è stato su nel Bronx, quando c'era meno gente, sui ponti fa freddo e improvvisamente sei in silenzio perché non c'è nessuno al bordo della strada, quindi senti solo il tuo respiro e i passi di quelli che hai di fianco. Però proprio una crisi vera e propria no, a parte il male ai piedi è stata una bella esperienza. Guarda, la cosa più assurda che è successa ieri è successa ieri sera, quando sul profilo Facebook della maratona di New York è apparso il messaggio di un ragazzo italiano che si chiama Maurizio, che diceva che all'ingresso di Central Park, sulla quinta strada, lui si è sfilato il guanto perché aveva caldo e ha perso la fede nuziale. Ha perso la fede nuziale dove c'era scritto il nome di sua moglie, che si chiama Carlotta, e la data del loro matrimonio, e chiedeva alla comunità, diceva: sembra impossibile, ma secondo me queste cose qui possono succedere, se qualcuno la ritrova sono felice di ringraziarla, di riaverla. E il suo messaggio ha migliaia e migliaia di condivisioni e di persone che dicono: rivolgiti a Sant'Antonio. Sono in lacrime, mi credi? Sono veramente... Guarda Carlo, ti immagino proprio là. Sono veramente come ho la voce rotta dell'emozione, guarda. Quando, come quando... all'arrivo. Quando torni, disgraziato? Torno, prendo l'aereo, domani sono lì. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, Matteo Caccia. Portami qualcosa, la fede nuziale. Ciao, giochiamo Carlo, al casino. Grazie, ciao Teo. E anche questo, e anche questo, anche questo, e tutti convocati, ragazzi. Matteo Caccia che fa la maratona, ma veramente ha fatto un gran tempo, perché non è roba da tutti. Innanzitutto non è roba comune riuscire a finirla con la maratona di New York. Poi è chiaro, fa freddo, eccetera, ma credo che, insomma, attraversando quella che secondo me è la città più bella del mondo in una condizione del genere, quasi tu non ti renda conto di correre per 42 km, quasi l'intera New York ti porti sulle spalle. Deve essere davvero un'esperienza incredibile, chissà cosa ci tira fuori da questa esperienza quel disgraziato di Matteo Caccia. Vabbè ragazzi, chiudiamo qui, appuntamento naturalmente domani. Stasera c'è un altro paio di partite anche interessanti, perché Cesena-Verona alle 19, Lazio-Cagliari alle 21 sono qualcosa di interessante, ma soprattutto domani 14:30 si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo Scaltritti, un gioco. Sei squalificato, dopo questa Scaltritti in regia è squalificato. Io ringrazio solo Piantanida, autore di questo programma, e la Schiattone in redazione. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ma che buongiorno, allegri. Quello sì che è un pilota. E il tuo quando arriva? Mi hanno detto che viene dalle gare tipo Indianapolis. Sì, campionato velocità. 2 vittorie nella categoria prototipi, 3 nelle gare in salita, altre 7 nella categoria sport. E fa parte dell'ASA. Però, a memoria è davvero forte, ma ne capisce qualcosa di piloti. Si vedrà. Ehi, Harry, da dove viene il tuo pilota? Eagle Rock. È dalle parti di Whisboro? No, Glendale, California. È uno Yankee? Beh, non proprio. Quelli della California non sono Yankee. In realtà non sono niente. L'hai detto. 14:30, si parte tra poco. Inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folle ai cancelli e spazi cremini. È un gioco a...